Quello che sta succedendo a Zano è che qualche giorno fa più di 20 migranti si sono sentiti dire che entro 10 giorni avrebbero dovuto lasciare il centro perché hanno appena ricevuto il positivo dalla commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. I ragazzi sono stati mesi ad aspettare anche solo per prendere le impronte per avviare la richiesta di protezione internazionale e adesso che la commissione e la prefettura hanno accelerato le operazioni si ritrovano con così poco preavviso a dover lasciare il centro senza aver avuto il tempo di trovarsi un lavoro, di trovare una casa, quindi si parla di più di 20 migranti che finiranno per strada nel giro di qualche giorno in questa situazione. Questi sono ovviamente gli effetti delle politiche razziste del governo, delle prefetture che giocano con il tempo dei migranti, costringendoli prima ad attese lunghe, estenuanti per avere anche solo un pezzo di carta che gli permetta di cercarsi un lavoro e poi nel momento in cui le operazioni vengono accelerate danno loro così poco preavviso per lasciare i centri e per uscire dall'accoglienza. Sono gli effetti dello smantellamento dell'accoglienza che il governo sta portando avanti perché questi migranti non avranno diritto a finire nel circuito della seconda accoglienza che in questo momento è praticamente svuotato di qualsiasi funzione, ma diciamo che in questo momento è importante anche che il comune si faccia sentire perché si tratta di decine di persone che finiranno per strada dal giorno alla notte con il comune che continua a nascondersi dietro la bandiera dell'accoglienza democratica. I problemi dei migranti rimangono e anzi sono accentuati da questa situazione. Parliamo di ragazzi appena maggiorenni, massimo 25 anni, e parliamo soprattutto di maliani, burkinabè, congolesi, quindi persone provenienti dai paesi che non sono nella lista dei paesi sicuri, perché quelli invece continuano a ricevere i negativi e a dover fare appello prendendo altro tempo.